Parliamo dei lavoratori della sicurezza antincendio e sicurezza stradale della GSA, che è una società in appalto a 8 strade per l'Italia e che opera nello specifico dei lavoratori che rappresentiamo nella tratta Incisa Sasso Marconi. L'avvertenza è stata aperta su 3 punti fondamentali: in primis la questione della sicurezza, in secondo luogo la questione salariale e poi anche la questione chiaramente di rappresentanza sindacale, perché per avviare qualsiasi tipo di confronto o di trattativa con l'azienda chiaramente necessita di un riconoscimento sindacale che attualmente non c'è. Per quanto riguarda la sicurezza, c'è stato un tavolo di trattativa anche di fronte di mediazione tramite la prefettura di Bologna, sia nell'ambito dell'avvertenza che anche prima, per denunciare la situazione in cui operano i lavoratori della GSA. Come giustamente ha detto il prefetto, la materia della sicurezza non è conciliabile, non è una problematica mediabile, nel senso che ci sono delle leggi da rispettare e l'azienda deve rispettare le leggi senza alcuna mediazione. L'azienda tuttavia aveva preso degli impegni di fronte al prefetto che ovviamente non ha rispettato. La sicurezza, in primis abbiamo denunciato la mancanza di formazione, che su questo forse l'azienda un po' un qualcosina dopo la prefettura l'ha fatta. I DPI sostanzialmente dovrebbero essere individuali, possono essere anche collettivi a determinate condizioni. C'è la problematica di tutto quello che è materiale infiammabile, dunque dei caschi, caschetti, al coprigiacca, copripantaloni, praticamente ciò che si mette sopra la divisa per fare gli interventi antincendio, e con quello praticamente l'azienda non li mette a disposizione individualmente ma collettivamente. Dunque le divise sono, questi tipi di divise sono collettive, sono di taglia XXL, che ovviamente hanno preso la taglia più grande in maniera che tutti quanti possano infilarci dentro. Chiaramente per chi non ha quella taglia, fare gli interventi con delle giacche, dei pantaloni abbondanti, chiaramente non consente di fare gli interventi nelle giuste condizioni. Insomma, c'è il problema anche di alcuna strumentazione del lavoro, ad esempio quella delle bombole d'ossigeno. È successo di recente, lunedì scorso praticamente, un grave fatto nella galleria Sparvo durante l'intervento in un incendio, un mezzo che aveva preso fiamme dentro la galleria, in cui un lavoratore si è ritrovato con la bombola d'ossigeno che non funzionava e uno invece con poco ossigeno praticamente nella bombola. Un lavoratore appunto è stato male, è stato portato al pronto soccorso, mentre il collega si è accorto nell'utilizzo che invece aveva poco ossigeno. Poi c'è tutta la situazione dei gabbiotti, chiamiamoli così, dove i lavoratori sostano per 12 ore, perché i loro turni sono di 12 ore al giorno, in attesa di essere chiamati per i vari interventi durante incendi, durante ovviamente incidenti che avvengono chiaramente perché all'interno soprattutto delle gallerie, in autostrada ma anche all'interno delle gallerie. Come sono questi gabbiotti? Sono angusti, alcuni non hanno neanche il condizionatore, in tutti l'acqua non è potabile, tutti quanti devono provvedere alla pulizia, cioè sono gli operatori che devono provvedere alla pulizia dei gabbiotti. La questione salariale che poniamo invece attiene soprattutto al contratto che viene applicato, il contratto ANISA, sottoscritto dall'organizzazione sindacale CONFSAL, ed è un contratto nazionale che prevede una paga oraria di 6,30 euro orarie, che chiaramente per noi è insufficiente e non consente ovviamente di fare una vita dignitosa. C'è un contratto nazionale più dignitoso rispetto a quella ANISA, che è quello della Guardia dei Fuochi, dunque potrebbe essere applicato quello, è sottoscritto da CGIL e CISL e UIL, e quel contratto lì chiaramente ha una differenza, perché è una differenza di 173 euro lordi. Anche quello non è tutta sta tariffa, non è un granché, nel senso che si tratta comunque di 7 euro e 38, dunque si parla comunque di un lordi, chiaramente è sempre una paga minima e non sufficiente, sicuramente molto meglio di 6,30 euro. Se già si applicasse quello, se iniziasse ad applicare la differenza retributiva almeno tra i due CCNL, sarebbe già un passo avanti. Chiaramente 6,30 euro è veramente una retribuzione inaccettabile.